avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Mi dispiace, questa mattina devo velocemente anticipare rispetto all'argomento di cui avrei parlato oggi, che era appunto il problema gravoso dell'invasione dei ratti nella nostra città, ma ne parliamo un'altra volta, perché c'è qualcosa che veramente mi ha indignato, mi strappa l'anima. Certe volte mi domando se è possibile che noi possiamo continuare a chiamarci esseri umani se siamo capaci di pensare e concepire atti del genere. Preparatevi, è veramente qualcosa di molto duro, farà male anche a voi, ma è giusto che il mondo sappia. Pare che un sindaco spietato, senza cuore, senza un barlume di umanità, di un paesino della Svizzera, che mi rifiuto persino di pronunciare il nome, tanto luogo di abiezione è, abbia applicato, stia per applicare, non so se l'atto sia veramente accaduto, ma anche se non fosse accaduto ancora, è come se fosse accaduto, tanto incide profondamente nello sdegno delle nostre coscienze. Una antica legge cantonale del 1904, fatta in un momento in cui l'umanità probabilmente non aveva una sensibilità spiccata nei confronti dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Questa legge dice che se il padrone di un cagnolino non ha i denaro e non vuole, per una sua malversata volontà, pagare la tassa di proprietà di quel cane, l'organizzazione comunale ha pieno diritto di sopprimere il cane, di macellarlo come se fosse un qualsiasi animale. Beh, pare che questo sindaco stia per applicare questa legge cantonale a una signora, a una cittadina di origine italiana, che non può pagare, pensate, una tassa di corrispondenza di 38 euro, e quindi il barboncino di questa signora, un povero tenero barboncino, probabilmente sarà preso e macellato per questa legge cantonale. Ci sono persone che impazziscono per i cani e ci sono cani che fanno tutto da soli. Sono i Doberman. In genere, chi crede alla pazzia dei Doberman è pure certo di sapere il perché si verifichi. La colpa sarebbe della scatola cranica dell'animale, che, troppo piccola, comprime il cervello. Non è chiaro se intorno a quell'età sia la scatola a restringersi o il cervello a espandersi, ma l'effetto è lo stesso. Il cane esce di senno. Inutile dire che dal punto di vista scientifico non ci sono prove. Il cervello del Doberman funziona benissimo a 6 come a 8 anni e non corre alcun rischio di essere schiacciato. Potrei dire che sto continuando ad enumerare le scelleratezze degli esseri umani nei confronti degli animali. Quante volte avete sentito dire voi stessi, avete ripetuto ad altri, attenzione, non comprate un cane Doberman. Lo sapete, sono stati selezionati apposta dai nazisti per essere così cattivi. E quindi a loro cresce più il cervello della scatola cranica. E a un certo punto questo cervello esplode, esce dagli occhi, esce dalle orecchie, esce da tutti gli orifizi. Per questo i Doberman sono così cattivi. Ma devo dirvi, ahimè, molti l'avranno capito, coloro che mi conoscono, entrambe le storie sono due solenni invenzioni, meravigliose, fantastiche invenzioni, con quella venatura sadica, con quel senso di pietas insopprimibile per i poveri animali indifesi che sono i cani. In particolare oggi il Corriere della Sera dedica un'intera pagina alla lecita e giusta protesta del povero sindaco di un vero paesino della Svizzera, si chiama Flavio Torti, il paese è Recunvillier. Questo signore non ne può più perché gli stanno arrivando centinaia di lettere minatorie, girano voci in tutto il suo comune che lo verranno a prendere, faranno delle ritorsioni terribili, perché da mesi sia la stampa locale che la stampa limitrofa, mi sembra di aver capito, stanno facendo campagne di stampa contro di lui, perché qualcuno avrebbe detto all'inizio che stia veramente applicando questa legge cantonale del 1904 che prevede l'abbattimento del cane qualora il padrone non pagasse la tassa. Il sindaco ha semplicemente fatto una sorta di ricognizione per vedere ci fossero gli evasori delle di alcuni tipi di imposte, ma non si è mai sognato di minacciare la soppressione di un barboncino. Il cronista del Corriere della Sera è andato anche a vedere, a assaggiare di persona, pare che addirittura non esista nemmeno questa signora di origine italiana proprietaria del barboncino. Insomma, nessuno ne sa niente, ma per settimane questo argomento è stato oggetto di una nutrita campagna stampa, ma soprattutto della veemente protesta di quanti sentivano indignati da quello che stava accadendo. Beh, il tema dei miti urbani, delle leggende metropolitane è abbastanza antico, se ne parla da vari decenni, ma secondo me non se ne parla mai abbastanza, perché nonostante si siano raffinati gli strumenti di diffusione dell'attualità, della cronaca, delle notizie, dell'interscambio dei saperi umani, la rete che dovrebbe essere il principale luogo di disvelamento di ogni verità occulta, di ogni sortilegio, di ogni trama di potere, in realtà è il luogo in cui allignano, crescono, si moltiplicano le bufale in maniera stratosferica. Il meccanismo primario della leggenda metropolitana nasce da qualcosa che probabilmente affonda nell'immaginario comune, che qualcuno ha sempre sentito dire da un amico, molto spesso è il cugino, cioè questa figura simbolica, mio cugino dice che, e poi si inizia a enumerare i luoghi comuni. Ultimamente ho fatto una trasmissione dedicata al punto di vista degli italiani sugli immigrati cinesi, ma non so quante telefonate ho ricevuto di persone dicendo i cinesi non muoiono mai, perché quando muoiono, non so, ci fanno la carne in scatola, li mettono a mangiare nei ristoranti cinesi, li inceneriscono, li fanno scomparire perché servono i documenti per far arrivare altri cinesi, e tutti dicono questa cosa, parli dei cinesi, dopo 5 secondi tutti dicono è perché i cinesi non muoiono mai. Ma di storie simili ce ne sono tantissime, e uno dei libri più recenti scritti che su questo argomento, che recupera tutto il leggendume metropolitano tradizionale, dal Tronchetto della Felicità ai coccodrilli nelle fogne di New York, che ormai tutti ben sappiamo, fino alla pioggia dei serpenti, dicendo, aggiungendo però qualcosa di nuovo, come ad esempio la storia della legge cantonale che prevede l'abbattimento dei cagnolini. Beh, oggi è oggetto di disvelamento sul Corriere della Sera, ma in realtà qualche collega, qualche giornale, qualche testata l'ha data per buona per molto tempo. Avete già sentito parlare dell'alpinismo liquido? Si va in riva a un lago, si prende la rincorsa e si corre verso l'acqua, anzi proprio sull'acqua, fino a quando si riesce, e poi ci si lascia cadere dentro. Sul sito dedicato a questo sport si scopre che non solo si può, ma c'è pure qualcuno che lo pratica con successo, sfidando e vincendo la legge di gravità. Cosa occorre per praticare l'alpinismo liquido? Solo scarpe di gomma leggere, uno scatto fulmineo e soprattutto molta, molta convinzione. Altri consigli utili sono scegliere un lago freddo, preferibilmente nella stagione invernale, mettete in conto l'uso di una muta, trovare un punto di ingresso in acqua abbastanza ampio da permettervi di prendere velocità, ricordarsi di appoggiare prima il tallone, che deve solo sfiorare l'acqua, e poi il resto del piede. Un po' di pratica farà il resto. Già dopo qualche tentativo arriverete a correre sull'acqua per 3 o 4 passi. Ecco, questo è il tipico esempio di fantastica fancazzata portata a rango di esistenza. Ci sono dei siti in internet che parlano dell'alpinismo liquido come nuovo sport estremo. Andate in un laghetto, possibilmente d'inverno, aggiungo con la speranza che sia anche ghiacciato, e poi vedrete, prendendo la rincorsa, anche voi avrete la ineffabile sensazione di poter camminare sulle acque. Non lo consiglio assolutamente a nessuno. L'alpinismo liquido, come altre 100 fantastiche leggende metropolitane, sono state raccolte da Severino Colombo nel libro edito dalla Newton Compton, 101 stronzate a cui abbiamo creduto tutti almeno una volta nella vita. E Severino Colombo è in collegamento al telefono. Colombo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Ecco, questa mattina il Corriere della Sera ci ha dato il destro per dare la prova che comunque l'aspetto della bufala metropolitana è ancora materia viva da cui attingono molte volte anche i cronisti. tu hai visto la pagina, ce l'avevi segnalata anche te questa mattina, ma già l'avevo vista, enumera poi a latere poi il fantastico della leggenda metropolitana che dà grandi occasioni per riempire pagine intere, anche semplicemente per sottolinearla e definirla. C'è il famoso drago sotto spirito, altra bufala, i ragni iracheni urlatori, altra bufala, o addirittura i pacchetti di grasso umano che girerebbe attraverso un losco traffico che squaglia gli esseri umani per farne del grasso. Cosa c'è di nuovo nel tuo libro rispetto al corredo tradizionale delle leggende metropolitane? Ma guarda, c'è di fatto un aggiornamento ai nuovi mezzi di comunicazione, nel senso che ci sono tutte quelle legate al web, a Facebook ad esempio, a quelle che ti arrivano come spam e che sono delle imperdibili chicche, tipo Bill Gates che ti regala 100 euro se tu inoltri questo messaggio ad altri 10 amici. Nessuno ha mai visto una lira, naturalmente. Mi sembra naturale, non si diventa miliardari regalando i soldi. Eppure queste mail girano da anni, hanno fatto il giro del mondo più volte. Senti, in particolare, per non lasciare poi l'argomento insoluto, sull'alpinismo liquido, da cosa nasce? Ci sarà un fondo di tentativo, di verità o di ipotesi, o è proprio totalmente una fantasia? Per me era nuova questa. Ma guarda, loro provano anche a dire che è una pratica già in uso nei greci, negli antichi greci, ma naturalmente non ci sono prove. Sì, soprattutto nell'anno zero dalle parti della Palestina, però sì. Una persona ci riuscì, ma non credo che sia molto diffuso. E senza neanche correre. Invece? Invece è un'operazione di marketing virale, nel senso che poi si scopre che dietro c'è in realtà un'impresa che commercializza impermeabili, sostanzialmente. Ah, mute da sub, impermeabili, cose del genere. Certo, così, scarpetti impermeabili. Perché uno si bagna... Beh, c'è del criminale, però qualcuno potrebbe anche rimanerci secco nel laghetto ghiacciato tentando di fare l'alpinismo liquido. Non c'è stata mai un'operazione concreta di repressione di questa istigazione al suicidio, no? No, ormai è concesso tutto, nel senso che è curiosa come idea, la gente lo guarda e magari ci prova e al massimo si fa un bagno fuori stagione. Senti, tu dicevi che la rete è luogo molto fervido, soprattutto partiamo dagli episodi più recenti, Facebook, i social network, anche recentemente stanno arrivando messaggi in cui se non segnalate il vostro profilo vi verrà cancellato irrimediabilmente perché non c'è più spazio. E la verità è che Zuckerberg è solo contento se gli amici aumentano, perché insomma va tutto a suo vantaggio. Facebook non crollerà mai, si diffonderà, magari passerà di moda, però non sarà un problema di pienezza, ecco, non perché è troppo pieno. Ecco, quali sono, diciamo, i filoni leggendari che nella rete si alimentano, crescono, hanno modo di verificarsi? La rete è il luogo in cui è facile chiamare le persone all'impegno civile, alla solidarietà, quindi i cuccioli abbandonati, per restare in tema, è una delle più fantastiche maniere per richiamare l'attenzione su di sé. Foto di cagnolini spelacchiati, macilenti, oppure tenerissimi, batuffolini di tenerezza da acquistare, ne girano tantissimi. Certo, beh, mi immagino tutti i ricordi, quella che ha fatto notizia qualche anno fa dei gattini nelle bottiglie. Beh, io ebbi il merito di scoprire la bufala allora. Quindi ben sai gattini come bonsai, gattini bonsai, esatto, girava gattini la voce bonsai. Ci fosse un kit per mettere i gatti dentro e allevarli dentro delle bottiglie. Era uno studente di un'università americana che si era divertito a creare tutto facendo dei fotomontaggi, naturalmente, delle foto particolari. Ricordo che Licia Colò fece trasmissione, esatto, ci fu un'interrogazione parlamentare in Italia, uh-huh, e la polizia postale investigò per capire chi mai diffondesse i gattini bonsai, che fine era soltanto. Ma anche una volta scoperto il fatto che fosse una bufala, a tutti continuavano a credere, perché in fondo fa bene, unisce le persone, credere che ci siano delle abiezioni così insulse e così irrazionali che facciano sentire buono chiunque. 800 24 00 24, avete capito l'argomento questa mattina con Severino Colombo, che ha scritto un libro su tutte le bufale possibili e immaginabili. Attendiamo un contributo da voi ascoltatori, ci segnalate quello in cui credete, quello in cui non avete mai creduto, quello in cui vi piacerebbe credere, che leggete nel giornale, avete sentito dire anche voi da vostro cugino. Un anno dopo l'incidente che è costato la vita a Lady Diana, si sono cominciate a diffondere le più svariate ipotesi sulle reali cause della sua morte. a cominciare dalle teorie del complotto e di quelle dell'omicidio camuffato da incidente. Queste teorie erano però destinate a subire un duro colpo nel 2006, quando un settimanale spagnolo annunciò una verità shock. Appena prima dello schianto, la principessa Diana stava facendo sesso con il fidanzato sul sedile posteriore. Fu questo a distrarre l'autista, che, già con i riflessi annebbiati dall'alcol, stava con gli occhi incollati allo specchietto retrovisore per non perdersi lo spettacolo. Parola di un fotografo francese entrato in possesso di un dossier riservato della polizia. Ecco, Serino Colombo, questa storia anche noi intanto l'abbiamo leggiucchiata sui giornali, ma ci sono fondi, motivi seri, concreti, razionali e fonti che possono attestare, o anche questo rientra in quello che tutti vorrebbero pensare e credere, oltre le altre centinaia di leggende unite alla morte di Lady Diana? Secondo me va proprio in questa seconda direzione, nel senso che è quello che uno vuole credere, non è accettabile che nel suo caso un personaggio così popolare, anche che ha diviso così tanto l'opinione pubblica, avesse una morte così banale per un incidente. Allora ci si ricama attorno, no? Poi erano appena uscite da un albergo, quindi non è che proprio venivano dalla metropolitana, che potevano essere presi da un raptus improvviso. Tutto può essere, però piace molto, c'è diciamo l'aspetto molte volte pruriginoso, lega molte leggende metropolitane. Certo, pensa a quella degli amanti incastrati. Ecco, io stavo succedendoti quella. Una volta mi ricordo che lanciai l'idea, quanti di voi avevano sentito dire che al pronto soccorso arrivano coperti da un pietoso lenzuolo un uomo, una donna, due uomini, due donne, un uomo e un cane, una donna e un elefante, a seconda poi della latitudine e della fantasia, incastrati, drammaticamente incastrati, che hanno dovuto miseramente chiamare il pronto soccorso perché la loro focosità amorosa a un certo punto ha avuto un intoppo. Ecco, ancora qualcuno ne scrive di queste cose, come della rissa nella festa di nozze che è stata trovata o nel bagno, nella cucina, nello sgabuzzino, la sposa con un testimone, lo sposo con la mamma della sposa. E c'è gente che giura che questa cosa è accaduta nel suo paese, accanto a casa sua. Sì, è proprio così, cioè, c'è gente che è disposta a giurare di averla sentita quasi dalla fonte, poi quando si va a verificare è sempre l'amico dell'amico o il cugino e tutto si perde in sostanza, no? Esiste, per attingere diciamo alla possibilità di avere nuove informazioni su questo tipo di fatti leggendari, dove sei andato a vedere? Sulle notizie, sugli archivi dei giornali, nelle emeroteche? Ancora, diciamo, la cronaca è il veicolo più importante alla propagazione di queste notizie. Certo, un po' tutti questi canali li ho utilizzati intrecciandoli. È vero che appunto queste notizie appaiono ancora come vere spesso sui quotidiani o sui siti di informazione. Quelle che citavi degli amanti incastrati è dell'anno scorso, l'ultima segnalazione però. Cioè, l'anno scorso ancora un giornale ha scritto, certo, come vera la notizia degli amanti incastrati. Servizio, poi naturalmente non si trovano i diretti responsabili, ma tutti hanno sentito di questa notizia e sono disposti a giurarci. C'è anche una variante di l'uomo che si veste da Batman, salta sull'armadio per salire addosso alla propria amante, scivola, cade, rimane paralizzato, qualcosa del genere. Anche questa è un'altra vicenda che ogni tanto viene riproposta tranquillamente, come se fosse normale. Questa mattina vedo che molti giornali hanno anche la vicenda del gatto guardone, il gatto che impediva la focosità dei rapporti fisici fra i suoi padroni perché li guardava intensamente. Io sono convinto che questa verrà fuori come una leggenda metropolitana. Ecco, quanto gli animali sono protagonisti degli aspetti leggendari? Guarda, gli animali purtroppo ne fanno le spese molto spesso, nel senso che gatti, cani, ma anche tori, struzzi, che c'è la copertina del mio libro, è una bufala. Cioè, è quella dello struzzo, racconta questa, certo, cosa. C'è lo struzzo con la famosa testa dentro il buco. Esatto, non la mettono la testa sotto la sabbia, non la mettono sicuramente per paura, la mettono per cercare cibo, per fare altro, e si infilano in bocca di tutto, ma l'idea che infilino la testa sotto la sabbia per paura è una bufala. Sentiamo Glauco. Glauco, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa ha sentito dire lei di vero che però non è vero? Ma c'è una bufala che va molto di moda in questo periodo ed è quella delle scie chimiche. Ah, va di moda da 20 anni, le scie chimiche. Ma ultimamente ho visto che c'è stato un certo ritorno di fiamma. Ma lei crede alle scie chimiche? Assolutamente no, è una grandissima bufala. Bene, lei è convinto? Allora, fermiamoci soltanto un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa, le faremo con Severino Colombo poi assaggiare tutto ciò che c'è di vero sulla vicenda delle scie chimiche. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Siete sdraiati in spiaggia con l'intenzione di fare un pisolino, ma il vicino di ombrellone vi fa notare delle strisce bianche nel cielo. Per potergli rispondere dovete prima conoscere la teoria delle scie chimiche. Secondo i suoi sostenitori, gli sciachimisti, le scie sarebbero esperimenti la cui esatta finalità è ancora sconosciuta. Non ci sarebbero però dubbi sul fatto che si tratti di agenti chimici e biologici. In attesa di prove certe, non mancano ipotesi inquietanti e fantasiose sui mandanti. La CIA, la NASA, il Vaticano e perfino Google, ma anche sugli effetti. Si va dalle modificazioni del clima ai test militari, dalle tecniche di condizionamento psicologico, piovute dall'alto, a strumenti di contenimento demografico. In effetti, se si guarda al cielo per seguire le scie chimiche, si perde del tempo prezioso e potrebbe usare altrimenti. Mi scrive anche su Facebook Giuliano, sempre per una leggenda in linea, che secondo Umberto Eco gli scienziati americani nucleari hanno studiato l'unico modo per mantenere nei millenni la notizia di siti di scorie radioattive, quello di creare artificialmente un nucleo di miti e leggende che dicono che quel luogo è maledetto. E poi vedo tantissimi scrivono indignati perché ho preso in giro la notizia del cagnolino che per una legge cantonale deve essere soppresso se il padrone non paga la tassa. 800240024, questa mattina stiamo parlando dei miti metropolitani, del loro perseverare, del loro rimanere indelibilmente ancorati alla mente di chi vuole credere nelle cose più incredibili possibili, più incredibili, più da credere. Lo facciamo con Severino Colombo, che ha scritto 101 stronzate a cui abbiamo creduto tutti almeno una volta nella vita, Newton Compton Editori. Ecco le telefonate. Sergio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo dire una storia un po' particolare. Siccome io sono un ex vigile del fuoco e all'incirca alla fine degli anni 80 avevo assistito al rientro di una squadra in caserma, non ero andato io personalmente, dove un intervento è durato più di 10 ore perché un signore, per provare emozioni particolari, aveva infilato il suo coso all'interno dentro di un tubo di una decina di centimetri. Se noi sappiamo... Beh, non era poi tutta sta gran cosa alla fine. Beh, no, però il problema qual era? Che quelli dell'ambulanza del 118 non riuscivano a risolvere. Ma perché il tubo era ancorato all'impianto idrico di una casa? Come funzionava? Questo tubo era un tubo libero con due estremità. Si tirava sui pantaloni col tubo e tutto, se ne andava all'ospedale. Qual era il problema? Perché problema è che sono andati all'ospedale la squadra perché non riuscivano ad arrivare a. Ma i pompieri che attrezzi avete voi per liberare? Infatti è durato una decina di ore. Ma con che? Con la fiamma ossidrica? Penso una cosa chirurgica. No, con un lavoro certosino di seghetto bagnato in maniera particolare per non fargli male, ma questa qua è una cosa sembra Mary per sempre. Ci hanno fatto anche un film. Non è Mary per sempre. C'è un film comico demenziale. Tutti pazzi per Mary, tutti pazzi per Mary. Ma è vero, sì, poi... c'è un signore che tira su l'acceleralampo in maniera impropria, vengono i pompieri, i vigili del fuoco e tutto. Ma io ne posso raccontare anche delle altre. Sì, lei ha contezza che si tratti di cretinate assurde. Lei ci ha creduto veramente che i suoi colleghi sono andati con... eravamo proprio testimoni tutti in caserma di questa cosa qua. Sono andati con il camion, con l'autobotte... Esattamente, sì. Per un tubo di 10 centimetri che aveva incastrato il microfallo di un signore. Questo succedeva negli anni 80, eh? Erano anni cupi. Non ho motivo di dubitare. Luigi. Sì, pronto. Dica anche lei un'altra verità a cui ha assistito. No, non è una bufala la mia, è la verità. Stamattina sulla provincia di Como c'è l'articolo, la Tremonti, che è sorella del ministro ministro del tesoro, randaggi costano troppo, sopprimere quelli non adottati, li vuoi sopprimere. Però non è se lo chiede. È la verità. Ma non ha nulla a che fare con le leggende metropolitane. Lo so. Quella io ho letto, signorina. Sì, vabbè, questa è, diciamo, adesso non voglio entrare nello specifico, non so, non conosco il caso. È un problema legato ai canili, a queste cose qua. Non conosco la materia, ma non vedo l'aspetto leggendario, capito? Della legge cantonale del 1904, se il padrone non paga la tassa, gli viene portato via il cagnolino dalle braccia, ancora caldo, di affetto, e viene soppresso. Qua si tratta di un problema sul randagismo, che è un problema triste, angoscioso, difficoltoso, ma non è l'aspetto leggendario. Mario. Buongiorno Gianluca. Allora, sentiamo... io potrei iniziare... Mi senti? Sì, sì, la tua verità, sentiamola. È una leggenda che, allora, per quello che riguarda me, risale a 30 anni fa. Mm. È legata a un laghetto che c'è qui in provincia di Brescia, che si chiama Lago Moro, Capo di Lago. Mm. Esiste una leggenda che parla di un bambino nella culla, però quella che vi racconto io, che purtroppo è stata tramandata anche qui, si dice che lungo le strade che porta questo laghetto girasse una ninfomane. Ti puoi immaginare 30 anni fa, ragazzi di 18 anni, come avevo io, ovviamente era il tragitto preferito. Sì, ma come è fatto una ninfomane che gira a brada sulle rive di un lago? Io purtroppo non l'ho mai vista. Il punto è che ancora adesso si crede a questa cosa. Io spero che non sia la stessa ninfomane. Cioè dicono che attorno a questo lago gira una ninfomane. Sì, ma cosa c'è, un cartello con scritto io sono un ninfomane? Ah, guarda, purtroppo non l'ho mai incontrata, però ti garantisco che un po' di volte l'abbiamo fatta quella strada lì. A cercare la ninfomane? Cioè, dicono che ci sia ancora adesso, spero che non sia quella di 30 anni. Vabbè, è un fantasma, si aggira lì come un'anima inquieta. Mi auguro di no. Ma voi cosa sperate, di incontrarla e che lei vi mostri la lussuria più sfrenata? Spero di non incontrarla adesso, perché adesso bene o male sono passati 30 anni. Penso Beh, che dopo 30 anni, che vuol dire? Magari è iniziato giovane. Ha iniziato giovane. Eccola. Vabbè. Alberto, chiudiamo questa serie con Alberto. Buongiorno Nicoletti. Sì. Io volevo raccontare una storia che quando mi è stata detta la prima volta ci credetti, insomma. Ed è quella di un genitori... convintissimi anticlericali che battezzano il figlio con un nome che è una classica bestemmia con l'accento spostato. Che adesso non c'è bisogno che entriamo nel particolare, comunque. Ecco. Poi la storia è che un amico comune ripete questa cosa sbagliando la bestemmia, sempre con l'accento sbagliato, a suscitare ilarità. Vabbè, questa è una barzelletta. È stata riferita come qualcuno dicesse: conoscevo questa persona. Esatto, conoscevo questa persona. In effetti la prima volta io ci credetti, era una cosa abbastanza verosimile. Poi questa bestemmia con l'accento spostato aveva un suono anche credibile in qualche modo. Poi dopodiché l'ho sentita ripetere, allora mi sono reso. Ha capito che è una stupidaggine. Esattamente, magari è contenuta anche nel libro del suo ospite. Sentiamolo. So. Allora, Severino Colombo, autore appunto del libro della Newton Compton dedicata a queste leggende, ti abbiamo dato una sventagliata di leggende nuove, vecchie, trite, ritrite, inedite. Vediamo che conclusioni trai da quello che hai sentito finora. Allora, guarda, per quanto riguarda quella della ninfomane al bordo del lago, mi ricordo molto da vicino quella dell'autostoppista fantasma, insomma, mi sembra una variante di quella, no? Sai, quella del ragazzo che torna dalla notte in discoteca e incontra in una strada buia una bella ragazza, la fa salire in macchina, ci passa la notte insieme. Passione e poi sa che è morta. E il giorno dopo si ritrova con il suo giaccone, glielo riporta e scopre che questa ragazza è morta da 50 anni e allora glielo va a mettere sulla tomba. Questo un pochino somiglia. Poi questa qua della famiglia che con il nome blasfemo per uno spostamento di accento ti risulta? No, questo non mi risulta, però conosco bene la follia dei genitori nello scegliere i nomi dei bambini, quindi non mi sorprenderebbe che ci fosse un confondo di verità, nel senso che ci sono genitori che hanno dato ai figli i nomi più assurdi, non andiamo a elencarli, ma Nathan Falco, insomma. Ecco, c'è un'altra cosa che entra nell'ambito leggendario, ma è talmente leggendario ancora si vede applicata. Spesso ci capita, camminando soprattutto nei piccoli centri, nei piccoli comuni, nei paesini, di vedere accanto ai portoni, uno pensa sia un motivo di trascuratezza, una dimenticanza, poi si vede che la cosa è ripetuta, delle bottiglie di plastica piene d'acqua accanto al portone. Qual è la spiegazione scientifica delle bottiglie di plastica, piene di acqua, prive di etichetta, che si vedono spesso davanti alle case, lungo i muri, nei viottoli, sotto i ponti. Chi le ha messe? A cosa servono? Sarebbero bottiglie anti-pipì efficaci, si dice, sia con i cani che con i gatti. L'idea è di per sé balzana. Le bottiglie d'acqua avrebbero in alternativa i seguenti poteri. Deformante. Specchiandosi, gli animali vedono la loro immagine deformata, si spaventano e si allontanano. Minaccioso. Le ombre proiettate dalla bottiglia mettono paura agli animali. L'acqua serve solo a non farle cascare. Una cosa è certa, la leggenda è diffusa in mezzo mondo, dall'Italia agli Stati Uniti, dal Canada al Giappone, all'Australia. 800 24 00 24. Avete mai messo una bottiglia d'acqua accanto alla porta per spaventare cani e gatti? Se l'avete fatto, chiamateci, ma tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Snuff Movie. Qualora non abbiate mai sentito parlare di questo genere cinematografico, le cose fondamentali da sapere, prima di accettare la parte in uno di questi film, sono quattro. Può essere molto, molto doloroso. Non c'è l'happy end, almeno non per voi. Non avrete mai l'occasione di rivedervi. Sono illegali. Dolore, violenze, torture, sofferenze e morte. Tutto davanti alla cinepresa e senza trucchi né effetti speciali. Tutto vero. Anzi, per fortuna, tutto falso. Perché per quanto se ne parli, e qualche critico li abbia pure cercati a lungo, film in cui un attore accetta di soffrire e morire per il semplice e perverso piacere di uno spettatore non esistono. È solo un ipotetico caso estremo di film a verità che sconfina nel mito cinematografico. 800 24 00 24. Severino Colombo, autore di un libro per la Newton Compton, 101 stronzate cui abbiamo creduto tutti. Severino Colombo, ma c'è un po' questa mania di mettere parole forti nei titoli dei libri, poi rende un po' difficoltoso pronunciarle per radio, non perché abbia pruderie, ma si poteva dire baggianate, banalità, poi ognuno fa come vuole. Comunque siamo vittime del marketing, per cui un sì, titolo d'impatto. Io guarda, se c'è uno che non si formalizza o non si spaventa sono io, ma questo sdoganamento lessicale nei titoli dei libri soltanto, e poi nella realtà non è così. L'altro giorno avevo un libro sul manuale delle giovani mignotte, oggi devo dire 101 stronzate. Poi alla fine uno si sforza a mantenere un linguaggio, però comunque l'argomento lo abbiamo capito. La questione dello snuff movie, sullo snuff movie abbiamo tutti pensato, scritto e lucubrato, i tempi in cui la rete era definita soltanto negli abomini che si consumavano al suo interno, era molto presente. Hai prova che non siano mai esistiti o non esistano gli snuff movie, solo nei film tipo Hostel e via dicendo? Ma guarda, dalle mie ricognizioni appunto è proprio questo che emerge, nel senso che è diventato un mito cinematografico, ritorna in tanti film come tema, come soggetto, ma di fatto attori che si prestino per questa ultima interpretazione volontariamente per soddisfare i piaceri dello spettatore non ce ne sono, in sostanza. Non c'è il casting per gli snuff movie, sono semmai atti criminosi di perversi, maniaci e assassini. Per fortuna non siamo ancora arrivati a un reality show di questo tipo. Senti, come ti spieghi la vicenda delle bottiglie d'acqua, che sembrano una delle più favolose fantapanzane possono esistere, si è diffuso ormai in tutto il mondo? Io l'ho visto veramente dappertutto, la bottiglia d'acqua di plastica davanti alla porta. Ma guarda, questo nasceva proprio da una mia curiosità, perché anch'io mi sono interrogato a cosa diavolo servissero, e la spiegazione che ho provato a dare, che è quella che ho trovato mettendo insieme le informazioni raccolte, è che tutto parta da una pratica che si faceva per tenere lontano le volpi dai campi negli agricoltori in Scozia, nel senso che le bottiglie, in questo caso di vetro, senza tappo, infilate per metà nel terreno, battuto dal vento, producevano dei suoni che appunto, essendo inquietanti o comunque non prevedibili, spaventavano eventuali volpi o altri animali che potessero... Oddio, io le volpi in Abruzzo, in Sabine, in Umbria, le vedo razzolare nei cassonetti la notte tranquillamente come gatti, quindi quanto spaventino le bottiglie e le volpi mi sembra molto singolare. Ma andiamo avanti con i nostri ascoltatori, che sono molto fervidi individuatori di leggende questa mattina. Silvio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Buongiorno Nicoletti. Ma io non potevo non segnalare il mitico Giacobbe, la sua trasmissione ci inchiniamo di fronte al dio della divulgazione della leggenda metropolitana, esatto, figuriamoci. L'orgia della bufala. Ieri sera sono riuscito a cogliere, hanno recuperato la famosa morte di Paul McCartney, il bassista dei Beatles, che sarebbe morto nel 68 misteriosamente. Sì, che legate cerchi nel grano, e naturalmente dentro la grande piramide c'è la formula di perché il mondo finirà nel 2012. C'è tutto dentro lì, perché era bellissimo, volevo semplicemente segnalare, insomma, mi sembrava un minimo contributo, insomma, tutto qui. Severino Colombo, te Giacobbo ti ha mai invitato, no? No, non mi ha mai invitato. Metteresti in dubbio la certezza del suo programma. Anna, buongiorno. Pronto? Eccoci qua, Anna. Buongiorno, senta, volevo chiederle una cosa. L'altro giorno, qualche giorno fa, sentendo appunto un TG di su Radio 24 alla mattina presto, ho sentito la notizia che un tale ha ammazzato 100 aschi in America perché dopo queste gare di slitte non servivano più. Io spero che sia una bufala e non vera. Lei ne sa qualcosa? Onestamente ho letto anch'io la notizia, è la soppressione di cani, come si diceva anche quando si sono chiusi dei luoghi in cui i cani corressero, questi cani una volta non più capaci per l'uso agonistico vengano soppressi. Voglio pensare che non sia vero, Colombo ne sai qualcosa, però non è proprio lo schema della leggenda metropolitana, onestamente, secondo me. Ho letto la notizia ed è tra quelle che vorrei approfondire, però al momento effettivamente mi aveva colpito, non mi sembrava improbabile, ecco. Diciamo che anche la fonte vi farà sorridere, anche nelle prime puntate della prima edizione dei Simpson, il piccolo aiutante di Babbo Natale, che è il cane sfigato della famiglia Simpson, che Homer dice anche lui è un perdente, anche lui è un Simpson, era un cane che viene preso appunto da un cinodromo, era il più sfigato di tutti, e lo stanno per sopprimere, se lo prende Homer Simpson perché ne riconosceva la singolarità, quindi questo può essere un elemento in più per definire l'aspetto leggendario e rassicurare la signora. Massimiliano. Sì, buongiorno Massimiliano a tutti. Io per professione tratto immobili e spesso sento la classica leggenda del palazzo antico che ha il tunnel in mezzo, c'è il tesoro. Penso che sia una delle più antiche leggende metropolitane di secoli, naturalmente. Cioè lei trattava immobili che li facevano intravedere l'idea ci fosse un tunnel che portava a un tesoro. Sì, io tratto immobili e particolari, magari il palazzo antico, dicono sempre forse nel paese, oppure il proprietario, c'è il cunicolo che anche per chilometri naturalmente, magari anche in ex zone paludose dove è impossibile scavare o fare cunicoli lunghi di chilometri. Queste sono le classiche leggende secolari. Severino Colombo, sul tesoro legato a unità immobiliari, ti risulta che esista un aspetto leggendario? Ma ce ne sono, sì, però se lui trova chi è disposto a crederci e riesce a vendere la casa, tanto meglio per lui, nel senso che è proprio molto diffusa questa cosa dei tesori, dei fantasmi, dei misteri dentro i castelli, insomma. Ecco, adesso ti vorrei dare un elemento di riflessione in più per il tuo prossimo libro. Ho citato oggi la notizia che su molti giornali del gatto guardone che metterebbe in soggezione una coppia sposati, amanti, non so bene cosa. Pare che ci siano rispondenze nel nostro pubblico di questa fattispecie. Salvatore. Sì, ciao. Telefonavo per confermarla questa cosa qua, perché ho un amico che all'epoca usciva con una fidanzata e con un gatto, e quando andava a svolgere i suoi compiti di fidanzato si sentiva fortemente a disagio perché nella stanza c'era il gatto che guardava in maniera ossessiva, infatti lui aveva dei problemi. Leccandosi i baffi poi. Massimo. Sì, buongiorno. Lei conferma l'idea del gatto guardone? Sì, io ne ho due di gatti e ce n'ho uno dei due che si è resto in camera, si è a covaccia. Solo uno, l'altro no, soltanto l'altro uno. L'altro è più discreto. E l'unica roba che faccio, prendo il gatto e lo porto fuori dalla stanza. Beh, quando vi guarda cosa fa? Emette miagolì? Niente, resta fisso, lui guarda, lo guardi negli occhi e è proprio convinto, lo si vede così, ecco. E intravede in quello sguardo una sorta di rimprovero? Ma io credo un po' nella reincarnazione, quindi per quello magari penso che in ogni animale ci sia qualcuno, quindi di conseguenza magari c'è il gatto guardone. Ecco, Severino Colombo, hai visto, in 30 secondi abbiamo rimesso assieme l'idea che possa esistere il gatto guardone. È già una leggenda metropolitana, sta nascendo in questo momento. Beh, di fatto mi sa che l'alimentiamo in maniera molto veloce. Oltretutto, vabbè, il gatto, avendo questo portato suo di, come dire, animale legato in qualche modo al diavolo, ha già la carta d'identità pronta, ecco. Ecco, sentiamo Emanuela, proprio in coda. Cosa devi dirci, Emanuela? Che non è una leggenda metropolitana quella delle bottiglie di plastica. Lei le mette? Sì, altro che. E funzionano? Altro che. E come funziona? Ci spieghi allora il segreto, che nemmeno Colombo è riuscito a capirlo girando il mondo. Anche noi, io abito in provincia di Venezia, sì. Proprio una signora di Venezia. Che l'acqua non è che vi manchi da quelle parti. Esatto, ne abbiamo tanta . E ci hanno consigliato, perché avevamo tutti i muri della casa ammacchiati, perché avendo due cani maschi andavano che mettete la bottiglia. Esatto, loro non sono più andati, mamma, serve anche se la metti davanti a un vaso di fiori o loro non so che cosa. Perfetto, evitano che i cani vadano a fare i loro bisogni lungo i muri. Abbiamo capito che dietro la leggenda c'è una massima di saggezza, ammesso che questo sia vero. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.